Capitolo 83esimo. Mida. Mida, figlio della grande dea Ida e di un satiro di cui non si ricorda il nome, fu uomo amante dei piaceri. Re di Bromio in Macedonia, egli governò sui Brigi, detti anche Maschi, e piantò il suo famoso giardino di rose. Quando era bambino, una processione di formiche fu vista salire sulla sua culla e posargli chicchi di grano tra le labbra mentre egli dormiva. Un prodigio che i veggenti interpretarono come presagio di grande ricchezza, e quando crebbe, Orfeo ne assunse la tutela. Un giorno il vecchio satiro Sileno, un tempo pedagogo di Dioniso, si allontanò dal disordinato esercito dionisiaco che marciava dalla Tracia verso la Beozia e si addormentò, ubriaco fradicio, nel giardino di rose. I giardinieri lo inghirlandarono di fiori e lo condussero dinanzi a Mida, cui egli narrò storie meravigliose di un continente che giaceva al di là del fiume Oceano, staccato dall'Europa, dall'Asia e dall'Africa, dove sorgevano belle città e abitavano giganti sereni dalla lunghissima vita protetti da una perfetta legislazione. Una grande spedizione di almeno 10 milioni di uomini partì un giorno per attraversare l'oceano e visitare gli Iperborei. Ma saputo che la loro era la terra più bella del vecchio mondo, tutti si ritirarono disgustati. Tra gli altri prodigi, Sileno citò un gorgo vorticoso che nessuno potrà mai superare. Due corsi d'acqua vi scorrono vicini e gli alberi che crescono sulle rive del primo portano frutti che fanno piangere e gemere chi li mangia, mentre gli alberi che crescono sulle rive del secondo fiume recano frutti che ridonano la giovinezza ai vecchi. Anzi, procedendo a ritroso attraverso la maturità, l'adolescenza e l'infanzia, divengono neonati e infine spariscono. Mida, deliziato dalla fantasia di Sileno, lo trattenne per 5 giorni e 5 notti e poi ordinò a una guida di scortarlo fino al quartier generale di Dioniso. Dioniso, che si era assai preoccupato per la sorte di Sileno, mandò a chiedere a Mida quale ricompensa desiderasse. E Mida replicò senza esitare: «Vorrei che tutto ciò che tocco si trasformasse in oro». Purtroppo non soltanto le pietre, i fiori e il mobilio del palazzo si trasformarono in oro, ma anche il cibo e l'acqua che egli si portava alla bocca. Mida, che era sul punto di morire di fame e di sete, supplicò perché il suo desiderio fosse annullato, a che Dioniso gli consigliò di lavarsi nella fonte del fiume Pattolo presso il monte Tmoro. Mida obbedì e subito fu liberato, e le sabbie del fiume Pattolo ancor oggi brillano d'oro. Mida, essendo così entrato in Asia con il suo seguito di brigi, fu adottato dal re Frigio Gordio, che non aveva figli. Quando era soltanto un povero contadino, Gordio rimase molto sorpreso, vedendo un giorno un'aquila reale appollaiarsi sul timone del suo carro trainato da buoi. Poiché pareva che l'uccello non avesse intenzione di muoversi, Gordio guidò il carro verso Telmisso in Frigia, città che fa ora parte della Galazia, dove si trovava un oracolo verace. Alle porte della città si imbatté in una giovane profetessa che, quando vide l'aquila appollaiata sul timone del carro, volle che Gordio subito facesse sacrifici a Zeus re. «Lascia che io ti accompagni, contadino», aggiunse, «per accertarmi che tu scelga le vittime a conce». «Senz'altro», rispose Gordio, «vieni pure, tu mi sembri donna saggia e avveduta. Saresti disposta a sposarmi?» «Non appena avrai offerto i sacrifici», essa rispose. Frattanto il re di Frigia era morto all'improvviso senza discendenti e un oracolo annunciò: «Popolo Frigio, il tuo nuovo re sta arrivando con la sua sposa seduto su un carro di buoi». Quando il carro entrò nella piazza del mercato di Telmisso, l'aquila attirò subito l'attenzione popolare e Gordio fu acclamato re all'unanimità. In segno di gratitudine, Gordio consacrò a Zeus il carro unitamente al giogo dei buoi, che gli aveva annodato al timone in un modo particolare. Un oracolo dichiarò allora che chiunque fosse stato capace di sciogliere quel nodo sarebbe divenuto signore dell'intera Asia. Giogo e timone furono di conseguenza riposti nell'acropoli di Gordio, una città fondata da Gordio stesso, dove i sacerdoti di Zeus li custodirono gelosamente finché Alessandro il Macedone sfrontatamente tagliò il nodo con la sua spada. Dopo la morte di Gordio, Mida gli succedette al trono, promosse il culto di Dioniso e fondò la città di Ancira. I Brigi che l'avevano seguito in Asia presero il nome di Frigi e i re di Frigia si chiamarono alternativamente Mida e Gordio fino ai nostri giorni. Cosicché il primo Mida è ora erroneamente descritto come figlio di Gordio. Mida assistette alla famosa gara musicale tra Apollo e Marsia, arbitrata dal dio fiume Tmolo. Tmolo consegnò il premio ad Apollo e, poiché Mida espresse un parere contrario a tale verdetto, Apollo lo punì facendogli crescere un paio di orecchie d'asino. Mida riuscì a nasconderle sotto il berretto frigio, ma il suo barbiere, accortosi di tale deformità, provò la irresistibile tentazione di palesarne il segreto, benché Mida gli avesse ingiunto di tacere, pena la morte. Il barbiere scavò dunque una buca sulla riva di un fiume e, assicuratosi che non vi fosse nessuno nei dintorni, vi sussurrò dentro: «Remida alle orecchie d'asino». Poi riempì la buca e se ne andò in pace finché un giunco spuntò in quel punto sulla riva del fiume e sussurrò il segreto a tutti quelli che passavano di lì. Quando Mida seppe che la sua vergogna era sulla bocca di tutti, condannò a morte il barbiere, che beve sangue di toro e perì miseramente. Mida è stato identificato in modo abbastanza plausibile con Mita, re dei Moschi, uomini vitelli o maschi, un popolo di origine pontica che, verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, occupò la parte occidentale della Tracia, più tardi nota come Macedonia. Essi attraversarono l'Ellesponto attorno all'anno 1200 avanti Cristo, ebbero il sopravvento sugli Ittiti in Asia Minore e conquistarono Pteria, la loro capitale. Il nome Moschi si riferisce forse a un culto del vitello come spirito dell'anno sacro. La leggenda del giardino di rose e della nascita di Mida fanno pensare a un culto orgiastico di Afrodite, cui la rosa era sacra. La storia del tocco che trasformava tutto in oro fu inventata per spiegare le enormi ricchezze della dinastia di Mida e la presenza dell'oro nel fiume Pattolo. Quanto alla leggenda delle orecchie d'asino, si disse fosse stata suggerita da una commedia ateniese, dove Mida compariva in veste di satiro con le orecchie mostruosamente lunghe. Poiché gli asini erano sacri al benefattore di Mida, Dioniso, che ne pose un paio tra le stelle, è probabile che in origine Mida traesse vanto da questa deformità auricolare. Due orecchie d'asino poste alla sommità di uno scettro di bambù erano l'insegna di sovranità di tutti gli dei dinastici egizi, il ricordo dei tempi in cui Set, dalle orecchie d'asino, governava il loro pantheon. Il potere di Set andò poi declinando finché i re Ixos lo fecero rivivere temporaneamente agli inizi del secondo millennio prima di Cristo. Ma poiché gli Ettiti facevano parte della grande orda di conquistatori nordici guidati dagli Ixos, può darsi benissimo che Mida, dalle orecchie d'asino, rivendicasse la sovranità dell'impero ittita in nome di Set. Nell'epoca predinastica Set aveva regnato sulla seconda metà dell'anno, uccidendo annualmente il fratello Osiride, lo spirito della prima metà, il cui emblema era il toro. Essi erano in verità i soliti gemelli rivali che si contendevano perennemente i favori della sorella, la dea Luna Iside. È probabile che la raffigurazione da cui fu tratta la leggenda del barbiere di Mida illustrasse la morte del re Asino. I suoi capelli a raggiera, sede del potere regale, vengono recisi come quelli di Sansone. La sua testa, dopo la decapitazione, è sepolta in una fossa per proteggere la città di Ancira dagli invasori. Il giunco è un simbolo ambivalente, come albero del dodicesimo mese, esso dà al re un avvertimento oracolare circa la morte imminente, ma conferisce anche poteri regali al successore. Il sangue di toro, per via dei suoi immensi poteri magici, poteva essere bevuto impunemente soltanto dai sacerdoti della Madre Terra. Trattandosi poi del sangue di Osiride, era particolarmente benefico per i re asini. Il segreto del nodo gordiano pare avesse un carattere religioso. Si trattava probabilmente dell'ineffabile nome di Dioniso, un rebus celato in una correggia. Gordio era la città chiave dell'Asia Minore, perché la sua fortezza dominava l'unica strada praticabile da Troia ad Antiochia, e le sacerdotesse o i sacerdoti locali potevano comunicare il segreto del nodo soltanto al re di Frigia, così come soltanto il sommo sacerdote poteva conoscere l'ineffabile nome di Geova a Gerusalemme. Il brutale gesto di Alessandro, che tagliò il nodo quando entrò in Gordio con il suo esercito per iniziare l'invasione dell'Asia centrale, pose fine a un antico privilegio elevando il potere della spada al di sopra di un mistero religioso. Gordio, da gruze ingrugnire o borbottare, era forse così chiamata per via dei mormorii che si udivano nel suo oracolo. Plutarco cita tre episodi che possono spiegarci perché mai la descrizione del continente Atlantide sia stata attribuita a Sileno ubriaco. Innanzitutto Plutarco ci dice che Solone viaggiò a lungo in Asia Minore e in Egitto, poi che egli credeva al mito dell'Atlantide e ne parlò in un suo poema epico, e infine che egli litigò con Tespi, l'autore drammatico, il quale, nelle sue commedie su Dioniso, poneva in bocca ai satiri delle battute comiche, evidentemente cariche di allusioni indiscrete. Solone chiese: «Non ti sgomenta, o Tespi, il dire tante bugie a un così vasto pubblico?» E Tespi rispose: «Che ti importa se l'intera commedia è uno scherzo?» Solone batté violentemente il bastone a terra. «Scherzi del genere, se permessi in teatro, finiranno col dilagare anche negli atti pubblici e nei trattati». Eliano, che cita Teopompo come sua fonte principale, pare avesse potuto esaminare una commedia di Tespi o del suo allievo Pratina. Tale commedia metteva in ridicolo Solone per le fandonie utopistiche del suo poema e lo descriveva come Sileno che vagava a piedi per l'Egitto e l'Asia Minore. Sileno e Solone sono due nomi simili, e come Sileno fu tutore di Dioniso, così Solone fu tutore di Pisistrato, il quale, forse per consiglio di Solone, introdusse i riti dionisiaci ad Atene. È possibile che Solone, durante i suoi viaggi, avesse raccolto qua e là frammenti della cultura dell'Atlantide che incorporò poi nel suo poema epico e che si prestavano alla parodia. Ad esempio la leggenda gaelica della terra della giovinezza al di là dell'oceano, dove Oisin fu condotto da Niam dai capelli d'oro e donde ritornò secoli dopo per visitare l'Irlanda. Ricordiamo qui che Oisin rimase disgustato dalla decadenza del proprio popolo, specie se paragonato al popolo di Niam, e rimpianse di essere tornato in patria. Il terribile gorgo descritto da Sileno si trovava nel punto dove, secondo gli antichi geografi, l'oceano si riversava nel nulla al di là dei confini del mondo. Pare che Solone avesse udito appunto i geografi discutere della possibile esistenza dell'Atlantide. Eratostene, Pomponio Mela, Cicerone e Strabone ragionarono a lungo sull'argomento e Seneca predisse la scoperta dell'Atlantide nel secondo atto della sua Medea, un passo che, a quanto si dice, produsse una grande impressione sul giovane Cristoforo Colombo.